Salva Danaio di Deborah Rosciani. Puntata di Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. È arrivato a circa 28.000 il numero delle famiglie italiane che hanno approfittato e beneficiato della moratoria sul mutuo prevista dal piano famiglie varato lo scorso febbraio da ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e Associazioni dei Consumatori. È una cifra che continua a crescere, che tra l'altro va ricordato che queste famiglie si aggiungono a tutte le altre che prima di questo piano avevano già sospeso il loro mutuo beneficiando invece di iniziative bancarie individuali. E fin qui buone notizie poi relativamente, perché quando parliamo di una famiglia che ha bisogno di sospendere il mutuo parliamo di una famiglia in grosse difficoltà economiche, dove magari c'è stato qualcuno che ha perso il posto di lavoro, per cui insomma buone notizie relativamente, però insomma è un sistema, a quanto pare quello che si è attivato da febbraio scorso, che sta funzionando. Ce n'è una meno buona e si riferisce alla partenza, anzi alla mancata partenza, del cosiddetto Fondo Gasparrini, destinato in egual misura a permettere a famiglie in difficoltà con precisi requisiti reddituali di sospendere il mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Un meccanismo che, vi dicevo, stenta a decollare, doveva partire il 2 settembre, ma non è pronto quasi niente praticamente. Allora oggi rifacciamo il punto della situazione, raccogliendo come sempre anche le vostre sollecitazioni al nostro numero verde, all'800 24 00 24. Siete riusciti a pagare il mutuo fino adesso, ma avete necessità di sospenderlo perché magari sono cambiate le condizioni, le entrate della vostra famiglia, le condizioni reddituali di un membro del vostro nucleo familiare? Raccontatecelo e magari cerchiamo di capire qual è la soluzione giusta che si può adottare. Stamattina con noi il nostro Maximilian Cellino, l'uomo del mutuo del Sole 24 Ore. Scherzo, Maximilian, ciao, bentornato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Proprio nelle pagine del Sole di sabato scorso ha fatto un punto sulle situazioni di cui vi stavo parlando, quindi moratoria, piano famiglie dell'ABI, Associazione dei Consumatori e Fondo Gasparrini, e poi il dottor Alessandro Messina, responsabile settore crediti dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Messina, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno, bentrovati. Noi questa mattina avremmo voluto con noi anche Federica Rossi Gasparrini, presidente dell'Associazione Donne Europee Federcasalinghe, che è stata promotrice dell'iniziativa del fondo che porta il suo stesso nome. Per una serie di problematiche non è potuta stare con noi, ma naturalmente ci ha pregato di fare con... speriamo di farlo, ovviamente, esattamente il punto della situazione e spiegare bene le motivazioni per cui ancora questo fondo non sta partendo. Allora, vi ho ricordato il numero per intervenire, vi ricordo l'altro numero magico, che è quello per scrivere i vostri messaggi, che è il 349-238-6666. Un'occhiata al mercato europeo: stamattina borse positive dopo i cali di ieri, gli listini del vecchio continente tentano di recuperare qualcosa, è un recupero molto modesto per Francoforte e Londra, più 0,3% in media al guadagno, un po' meglio Parigi, più 0,67%, FTSE MIB a Piazza Affari più 0,46%. Stamattina tante notizie stanno movimentando la seduta. Intanto il nuovo record dell'oro a $1,325,65 l'oncia, un record che è stato toccato anche da altre materie prime. Stamattina si sta continuando ad apprezzare anche l'argento. Moody's ha messo sotto osservazione con implicazioni negative il rating dell'Irlanda. La banca centrale del Giappone a sorpresa ha annunciato un altro taglio dei tassi di interesse, praticamente non c'è più niente da tagliare, ma la Banca Centrale del Giappone ha fatto ugualmente questo intervento. Il mercato nipponico stamattina è andato bene, ha guadagnato l'1,47%, un po' più modeste invece, come vi annunciavo, le prestazioni delle borse del vecchio continente. È una settimana importante perché riprendono le trimestrali americane, si comincia come sempre con Alcoa negli Stati Uniti giovedì e venerdì viene pubblicato il dato sulla disoccupazione americana. Fondiaria guida rialzi di Piazza Affari, più 4,63%. A muovere il titolo le speculazioni su possibili novità nella compagine azionaria che controlla la compagnia, attualmente in mano alla famiglia Ligresti. Azimut più 2,45, Ubibanca più 1,84, Buzzi Unicem più 1,64, un rialzo di un punto per STM, CIR, Mediolanum e Luxottica. Segno meno invece per Bulgari, quindi il lusso stamattina va su strade separate, meno 0,54%, Snam meno 0,41%. L'euro ancora forte stamattina, 1,37,76 sul dollaro. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi: mutui e le famiglie in difficoltà. Ci sono la perdita del posto di lavoro e la cassa integrazione in cima alla lista delle cause che hanno consentito a diversi italiani, dall'inizio dell'anno ad oggi, di ottenere la sospensione del proprio mutuo. I contratti interrotti per un massimo di 12 mesi, grazie al piano famiglie lanciato da ABI e associazioni dei consumatori lo scorso inverno, sono arrivati infatti a superare quota 28.000, per un debito residuo di circa 3,7 miliardi di euro. Vale a dire un risparmio di 6.800 euro per ogni famiglia. Più della metà degli aiuti erogati finora, precisamente il 53%, è stato destinato al Nord Italia. Le agevolazioni previste dalla moratoria, che vengono applicate in caso di perdita del lavoro, morte o perdita di autosufficienza di un familiare, a patto che la situazione di disagio si sia manifestata nel 2009 o nel 2010, hanno permesso nel 90% dei casi la sospensione dell'intero ammontare della rata. È importante ricordare che per fare richiesta per questo progetto è previsto un termine ultimo, fissato al 31 gennaio 2011. Il Piano Famiglia però non è l'unica iniziativa pensata di recente per venire incontro alle famiglie. È attesa a breve, dopo alcuni problemi a mettersi in funzione, l'attivazione del Fondo di Solidarietà. Un totale di 20 milioni predisposti dal Ministero dell'Economia, sempre per la sospensione fino a 18 mesi del mutuo e in presenza di requisiti pressoché analoghi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vedo già qualche ascoltatore che si sta prenotando ai nostri centralini. 349 238 6666, il numero invece per i vostri sms. Dottor Messina, comincio con lei. Alessandro Messina è responsabile settore crediti dell'ABI, perché racconto questo piccolo aneddoto, chiamiamolo così, quando ci siamo sentiti al telefono prima della trasmissione. Il dottor Messina mi diceva, insomma, come volevamo impostare la trasmissione, me lo ha chiesto e gli ho detto banalmente: facciamo un punto della situazione, informazioni di servizio, quelle che sono assolutamente necessarie alle famiglie che ci ascoltano. Per esempio, a partire dal fatto che ricordiamo che il piano famiglie scade a dicembre, e lui mi fa a gennaio. Io no, a dicembre. Lui no, a gennaio. Perché, dottor Messina, mi sembra un'informazione interessante da dare. In sostanza, a dicembre, fino a dicembre c'è tempo affinché si creino le condizioni di difficoltà, chiamiamole sì. Così. Sì, il vostro servizio lo ricordava bene. Quegli eventi negativi che possono scatenare il diritto all'agevolazione, che sono la perdita del posto di lavoro dipendente piuttosto che la perdita di o la cessazione di un rapporto di lavoro di collaborazione o parasubordinato, oppure una situazione di sospensione del lavoro come cassa integrazione mobilità, oppure ancora una situazione di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza in uno dei familiari mutuatari. Se queste condizioni si sono verificate a partire dal gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010, danno diritto a fare la richiesta. Ovviamente, se un evento si verifica nel mese di dicembre 2010, c'è la possibilità di fare la domanda con un po' più di tempo, quindi fino al 31 gennaio 2011. Come ricordava la scheda, anche appunto il piano famiglie è destinato a quelle famiglie, per l'appunto, all'interno delle quali si è verificata una situazione di perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, morte o perdita di autosufficienza di un familiare. Un ascoltatore, dottor Messina, Raffaele, ci scrive: posso sospendere il mutuo se il mio ente, Comunità Montana, in provincia di Salerno, non mi paga lo stipendio da 6 mesi? Questa non mi sembra una condizione contemplata dal piano famiglie. No, diciamo che il ritardo di pagamento da parte dell'ente non è una delle condizioni automatiche del piano famiglie, della sospensione, ma bisogna sempre ricordare a tutti gli ascoltatori che le banche hanno dimostrato una grande flessibilità anche nell'utilizzo dello strumento, per cui il 65% delle banche hanno aggiunto condizioni migliorative rispetto a queste base, introducendo altre categorie, tant'è vero che il 10% delle operazioni riguardano categorie che non sono quelle che abbiamo detto, quindi un numero significativo, circa 3.000 famiglie, quindi conviene sempre rivolgersi alla propria banca e comunque fare la domanda e cercare di capire come si può trovare una soluzione. Un altro limite, mi passi il termine, di questo piano famiglie, anche se poi, come giustamente il dottor Messina ricordava, ci sono tante alternative da poter praticare, perché al di fuori del piano si può sempre e si deve sempre fare una chiacchierata col direttore della banca, è di avere stromesso, di non aver contemplato nell'ambito di questo piano i lavoratori autonomi, dottor Messina. E un altro ascoltatore ci scrive: è vero che chi ha chiuso partita IVA nel 2009 non può usufruire della possibilità di bloccare il mutuo casa per un anno? Allora, qui sono molte le banche che l'hanno introdotti, dico molte perché sono veramente una grossa percentuale sia in termini di banche che in termini di sportelli. Il nostro sito contiene il dettaglio banca per banca delle condizioni offerte e quindi conviene andare a vedere se la propria banca che ha aderito a questa operazione ha anche incluso ad esempio le partite IVA, i lavoratori autonomi nelle categorie che ne possono beneficiare. Devo dire che il problema nella introduzione automatica della categoria è stato molto discusso con le associazioni dei consumatori che alla fine hanno convenuto con noi sulla difficoltà a dare un automatismo su una variabile così incerta come la partita IVA. Come la partita IVA e lavoro autonomo. Allora, quindi, in sostanza, il messaggio che vogliamo dare, magari Maximilian, prima di parlare del fondo Gasparrini, che a questo punto rinvio alla seconda parte del programma, e in ogni caso, a prescindere dalle iniziative istituzionali come quella di cui stiamo parlando questa mattina, c'è sempre il primo passo da fare, da compiere, che è quello di andare a parlare col direttore di banca e fare una valutazione della situazione personale, dopodiché capire se si rientra nel piano o seppure si può praticare una soluzione alternativa di sostegno alla famiglia in difficoltà. Sì, soluzioni alternative che può essere, per esempio, quando possibile allungare la durata del mutuo per cercare almeno quantomeno di abbassare la rata. Devo dire, da questo punto di vista, a parole o dall'alto quantomeno, dalle sedi centrali delle banche mi risulta ci sia molta disponibilità. Però io vedo anche molti messaggi da parte delle persone che ricevo segnalazioni da parte di persone che mi raccontano che le banche poi alla fine trovano scarsa disponibilità di fatto nel derogare a queste regole. E vediamo, probabilmente, ovviamente io riceverò soltanto le segnalazioni dei casi, esatto, andati, questo è anche vero, casi problematici, abbiamo un po' la distorsione, però ce ne sono ancora, ecco. Io consiglio a tutti comunque di insistere, di cercare di andare a parlare, perché è inutile tenersi tutto dentro sul fatto che non si possa pagare una rata. È bene cercare di trovare una soluzione comune con la banca. Infatti, speriamo che la banca ascolti, esatto, no, perché qualche volta, anzi molto spesso, la cosa più sgradevole che si verifica è il non ricevere nessuna risposta, né positiva, quindi né affermativa né negativa, e questo fa passare ulteriore tempo alle famiglie, che quindi continuano ad incrementare le difficoltà, le accumulano fino ad arrivare a scoppiare. Questo potete immaginare che cosa possa provocare all'interno appunto dei nuclei familiari. 800 24 00 24, numero verde per le vostre chiamate. Pronti Giovanni da Genova e Salvatore da Napoli, che sento tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta, Salva Danaio stamattina, famiglie in difficoltà per il pagamento del mutuo, cosa si può fare per interrompere il rimborso di questo finanziamento che ci impegna tantissimo, a volte ci toglie il sonno ed è successo a molte famiglie all'interno delle quali si è perso il posto di lavoro, si sono create delle condizioni di difficoltà, per esempio non solo per questioni lavorative ma anche perché magari è intervenuto un problema di salute che ha scompaginato un po' tutte le abitudini, tutte le certezze e naturalmente anche il bilancio in termini economici. Allora, come sapete, c'è stato un piano famiglie che è stato varato a febbraio scorso da ABI e Associazione dei Consumatori. Sta chiudendosi questa opportunità per le famiglie che hanno bisogno e ci sarà tempo fino a gennaio per fare richiesta qualora si fossero create delle condizioni di difficoltà in questo lasso di tempo, ma dovrebbe decollare al più presto anche un altro fondo di solidarietà intitolato alla presidente dell'associazione Federcasalinghe Donne Europee, Federica Rossi Gasparrini, che lo ha promosso qualche anno fa introducendolo in finanziaria, che non ha avuto successo, ma il 2 settembre Maximilian Cellino sembrava dovesse partire tutto e poi si è arenato. Cosa è successo? Beh, qualche dubbio, a dire la verità, l'avevamo anche allora, che non potesse partire. È successo che tutto, diciamo, intanto è un fondo che ha delle caratteristiche leggermente differenti dal piano famiglia ABI, e proprio per questo sarebbe importante, perché potrebbe essere in un certo qual senso complementare. Appunto, ripeto, dalle lettere che ricevo, dai messaggi che ricevo, vedo che ci sono delle persone che potrebbero rientrare in questo e meno nel piano familiare, per questo potrebbe essere importante. Ha avuto una gestazione molto molto faticosa. Pensate che è stato approvato nella finanziaria 2008 dell'allora governo Prodi, per cui un sacco di tempo fa. Mancavano i regolamenti attuativi, si pensava che non se ne facesse più niente. E in realtà poi la scorsa estate è stato dato il via libera a questi regolamenti attuativi da parte del Ministero delle Finanze, che ha stanziato 20 milioni di euro, 20 milioni di euro che dovranno essere utilizzati da un gestore che poi è stato individuato, questo era un problema, ma questo è stato superato, che si chiama Consap, che dovrà un po' gestire, appunto, come dice la parola stessa, tutte le operazioni, e dovrà anche rimborsare le banche per parte degli interessi che andranno a perdere sospendendo le rate del mutuo. Perché mentre per il piano famiglie praticamente in realtà gli interessi devono essere ripagati dalle famiglie stesse, che le pagano in un momento successivo quando riprendono a restituire e a rimborsare il mutuo, se non ricordo male. Esatto, si parla degli interessi che maturano e che continuano a maturare nel momento di sospensione. Invece in questo caso, in teoria, non dovrebbero essere a carico delle famiglie, perché il gestore dovrebbe rendere alle banche parte di quegli interessi che chiedono le famiglie, cioè la parte relativa al parametro fisso, cioè scusate, l'Euribor o l'IRS per i tassi fissi, mentre invece lo spread non dovrebbe renderlo. E qui probabilmente si aprirà un'ulteriore questione, perché mi risulta che si stia pensando di far ripagare lo spread, che sarà l'1,5% del ricarico della banca. Mi risulta che si stia pensando di farlo pagare direttamente alle persone che poi richiedono l'agevolazione. Potrebbe essere, insomma, che il fondo non parte proprio perché questi grovigli si stanno tentando di risolvere. In realtà il fondo non parte. Ma le associazioni dei consumatori, scusami, in questo fondo di solidarietà sono intervenute Non sono intervenute, mentre invece il piano famiglie ABI consumatori, esatto. 13 mi sembra siano le associazioni dei consumatori, quindi quasi tutte. Devo dire che la di Consum l'ha voluta forse più di tutte. Sì, invece il fondo di solidarietà no, soltanto è un'iniziativa appunto del ministero, del governo. Il problema per cui ancora si sta andando avanti, non è stato ancora attivato il sito presente Ministero del Tesoro. Esatto, dal quale sia le banche dovrebbero prendere le informazioni, sia ovviamente i consumatori dovrebbero scaricare i moduli per fare le varie richieste. Il problema è che qui mancano ancora delle istruzioni che il gestore dovrebbe dare alle banche su come comportarsi effettivamente, sia su alcune tipologie di mutuo. Vengono in mente i mutui a tasso misto, perché il decreto parla soltanto di fisso e variabile, sia sui mutui cartolarizzati, sia su quelli che hanno già usufruito di una sospensione, esatto, magari il piano famiglie. Un'altra grande domanda è quella. Sono tutti interrogativi da risolvere, e poi ci sono anche le questioni procedurali su come le banche dovranno trasmettere i dati al gestore, che sono magari, dottor certo. Messina ci potrà confermare, sono problemi molto importanti per le banche. Anche qui ci sono problemi di privacy. Un'altra serie di adempimenti a cui ottemperare. Adesso peraltro, prima di sentire il dottor Messina, volevo ricordare agli ascoltatori che volessero mantenere viva l'attenzione intorno al fondo di solidarietà, io vi do lo stesso il sito internet e magari lo continuiamo a guardare, Maximiliano, nei prossimi giorni, chissà che, esattamente, ma noi anche stamattina, ma non c'era ancora niente in termini di tutta questa modulistica di cui stiamo parlando stamane. www.dt.tesoro.it/, cioè la barra di traverso, fondo mutui prima casa, eppure lunghissimo, anche qui potevano trovare una formula più semplice. Comunque, andando sul sito del Ministero dell'Economia, io spero che quando tutto sarà pronto a partire per bene, magari sul sito del Ministero potrà campeggiare un link molto chiaro. Comunque i tempi allo stato, al momento attuale, si pensa che questi regolamenti possano essere, queste istruzioni possano essere diramate entro fine mese. Probabilmente le banche chiederanno un periodo di 10-15 giorni per cercare di organizzare tutta la procedura, che a onor del vero non è tutt'altro che semplice. No, anche perché, anche qui adesso poi risento Messina e gli ascoltatori, dobbiamo ricordare che negli ultimi 3 anni si sono accavallati interventi su interventi nel settore dei mutui, e pertanto potete immaginare anche quanta confusione. E noi in questo sarà, non diciamo una parolaccia, Maximilia, ma ci sentiamo anche un po' di esprimere cosa solidarietà al sistema che quando le iniziative sono partite dall'ABI di concetto con l'associazione dei consumatori, si è stato in grado di partire in maniera, sì, c'è stato un piccolo slittamento per esempio sul piano famiglie, ma non molto importante. Quando invece sono venute dall'alto, diciamo dal ministero, dal governo, e mi ricordo una per tutti il tetto del 4%, mamma mia, non lo rievochiamo. I problemi ci sono, per non parlare della surroga delle lenzuolate di Bersani. Ecco, lì ci sono dei problemi, perché probabilmente chi ha scritto le norme non aveva bene in mente alcune problematiche tecniche, esatto. Poi dopo all'atto pratico, e qui do pienamente atto alle banche, sono loro che devono applicarlo, se hanno dei problemi, delle difficoltà, si richiede del tempo, delle circolari chiarificatrici. Non ci potranno mai credere che abbiamo così anche sposato la causa bancaria stamantina, Maximilia. No, ma questo è vero, insomma, come contesto che probabilmente faranno pagare lo spread alle famiglie, devo dare atto che attivare le procedure è complesso, è dura. Costoso. Quindi. Allora andiamo agli ascoltatori, poi dottor Messina si sarà preso tutti gli appunti e naturalmente potrà esprimerci le sue considerazioni su tutto ciò che abbiamo toccato fino ad ora. Cominciamo con Giacinto da Genova, che prima ho chiamato Giovanni. Giacinto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, la chiamo per questo. Io ho avuto nell'ultimo anno e mezzo problemi di lavoro. Per cui ho perso lavoro, non riesco a far fronte al mio mutuo. Uh-huh. Ho una bambina di 2 anni, mia moglie ha iniziato a lavorare adesso da poco, però la mia banca non mi dà nessun tipo di informazione per ciò che riguarda questo tipo di manovre. Avevo chiesto io informazioni quando c'era stata il discorso, probabilmente piano famiglia, credo. Sì, che è quello di cui stiamo parlando stamattina, Giacinto. E mi è stato detto che non rientravo perché che deve essere il mutuo, mi sembra che parta da 200.000 euro, qualcosa del genere. Non so se c'è questo. Non 200.000 euro, 150.000 il limite. Sì, anche se qualche banca ha derogato, esatto, insomma, questo limite. Però c'è probabilmente un altro problema. Esattamente quando è che ha perso il posto di lavoro? Io sono un libero professionista. È questo il problema, il lavoro autonomo che non viene ad essere contemplato, l'abbiamo detto prima, Giacinto, nell'ambito del piano famiglie. Però attenda lì, dottor Messina, è una situazione di oggettiva difficoltà. Come può insistere questa persona con il direttore di banca per farsi trovare una soluzione? Perché lei oggettivamente capisce che anche di queste situazioni qua ne abbiamo a migliaia. No, ma certo, questo è purtroppo nella fase che stiamo attraversando è un tema ricorrente, il lavoratore autonomo come il piccolo imprenditore, l'artigiano, eccetera. La questione è sicuramente, come dicevamo prima, di spiegare con estrema precisione la propria situazione e cercare di capire se, al di là della sospensione, che magari dopo aver verificato se la propria banca ha aderito, ripeto che sul nostro sito c'è tutto il dettaglio, e dopo aver verificato questo e vedendo che non c'è questa opzione, cioè della sospensione, comunque si può andare a vedere se si può ad esempio rinegoziare il mutuo rispetto a una diversa modulazione del piano ammortamento. Questo, esatto, ovviamente dipende dal debito residuo, a che quindi punto, diciamo, siamo al piano ammortamento. Per Giacinto teoricamente la soluzione più praticabile è quella della rinegoziazione con un alleggerimento della rata. La sospensione è un po' più complessa, vorrei pur non avendo lavoro per sì. No, c'è una cosa che vorrei aggiungere, perché in moltissime regioni d'Italia sono stati fatti dei provvedimenti appunto a carattere regionale, promossi dagli enti regionali. Sì, dei protocolli tra, esatto, ente locale e sistema bancario. E sì, in funzione della regione di residenza, anche qui noi sul nostro sito cerchiamo di dare contezza di tutto ciò, ma è molto varia la casistica, in funzione di ciò diverse casistiche di cittadini, di situazioni problematiche, possono accedere a forme di sospensione già operative, quindi non è una cosa che verrà, già operative, che a volte coprono fattispecie che il piano famiglia non copre e anche coprono a volte le spese degli interessi e dell'intera rata. Certo, anche se io poi mi rendo conto di un'altra cosa, che quando si è in situazioni di difficoltà si fa fatica ad andare a fare la spesa, a pagare le bollette, mettersi anche su internet a cercare tutte queste informazioni diventa emotivamente molto complicato, e per questo ci si aspetta una risposta dal direttore di banca che magari sappia dire: guarda, non posso farti aderire al piano famiglie, ma cerchiamo di studiare questa soluzione, so che abbiamo firmato un protocollo con la regione, con la provincia, piuttosto che guarda, ti alleggerisco la rata. Io tante volte invece il silenzio, il diniego, addirittura il dialogo, non lo comprendo proprio. Maximilian, devo andare a sentire suggerimenti perché in viaggio, mi stavi chiedendo qualcosa? No, era di la regione. Era Ligure, Giacinto. Mi sembra che la Liguria avesse una... vado così a memoria, perdonatemi, ma mi sembra che la Liguria avesse qualche iniziativa. Ma io qualche credo iniziativa, che lo abbiano fatto in molte. Però anche lì queste iniziative, attenzione, spesso hanno bisogna avere dei requisiti, sì. Esatto. Ovviamente. Allora, ci fermiamo a tra pochissimo 80024. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Continuate a chiamarci, tra poco l'ultima parte di Salva Danaio dedicata alle famiglie in difficoltà che hanno bisogno di sospendere il mutuo. Quali sono le strade praticabili in questo momento? C'è il piano famiglie dell'ABI, che fino ad ora ha accontentato 28.000 famiglie in difficoltà, e sarebbe sulla rampa di lancio anche il fondo di solidarietà Gasparrini. Qua il meccanismo è un po' più complicato, speriamo di tornarvene a parlare in termini concreti abbastanza rapidamente. Volevo ritornare per un attimo al dottor Alessandro Messina, responsabile settore crediti dell'ABI, per chiedergli, spero di non metterla in difficoltà, ma magari una sensazione ce la potrà trasmettere. Il piano famiglie termina a dicembre. Secondo lei c'è nell'aria una proroga? Ne discuterete con le associazioni dei consumatori? Ne discuteremo sicuramente, perché noi con loro abbiamo un tavolo aperto, un dialogo costante, e devo dire che ovviamente già se ne è cominciato in qualche modo a parlare, in particolare dopo la proroga dell'avviso comune, cioè dell'analoga iniziativa fatta con le piccole e medie imprese. Sì. Vediamo, perché bisogna anche vedere un po' le condizioni, le reali esigenze. Ci troviamo in una situazione che, va detto, è sempre negativa quando parliamo di queste casistiche, ma meno negativa di quanto si temeva. Io ricordo che quando abbiamo lanciato il piano famiglie noi stimavamo una platea di potenziali beneficiari di circa 100.000. 100.000, sì, me lo ricordo. Molte associazioni ci criticarono dicendo che la platea era intorno ai 500.000, ricordo questi numeri, ci sono comunicati stampa in rete, e oggi vediamo che il numero dei beneficiari complessivamente è molto ridotto rispetto a questi numeri. Ciò ci fa capire che c'è un'esigenza, la stiamo affrontando come si deve, la situazione non è così drammatica. Uh-huh. E oltretutto a noi sembra che molte, come ci dimostrano i dati, molte iniziative che ormai hanno preso piede, come la portabilità, la rinegoziazione eccetera, stanno dando comunque delle chance importanti alle famiglie che vogliono magari ricalibrare il rapporto rata-reddito. Uh-huh. E ovviamente parliamo sempre di situazioni che hanno un reddito, perché è chiaro che lì dove il reddito non c'è la situazione è un po' diversa. Rapidamente altre domande dagli ascoltatori. Filippo dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Senta, io la mia domanda è questa. Allora, io non sono un privato, ma sono una società immobiliare che si occupa praticamente di raggiungere di beni. Filippo, io guardi, facciamo una cosa, la sentiamo malissimo, faccio recuperare il collegamento dalla nostra Gaia, perché la sentiamo ad intermittenza, quindi vado a Giuseppe da Cosenza. Allora, buongiorno. Buongiorno a lei. Salve, senta, allora io praticamente ho acceso un mutuo da 130.000 euro, mm-hmm. Premetto monoreddito, 3 figli a carico più moglie a carico, in 25 anni verrò a restituire 260.000 euro. Io praticamente... Sì. Allora, volevo dire che praticamente a me l'anno scorso mi è arrivato una comunicazione da parte della banca che avevano cartolarizzato il mutuo, e quindi non più una popolare qui dove ho acceso il mutuo, ma bensì una popolare di Treviso. Quindi se domani, perché qua purtroppo il mercato è un pochino critico, uh-huh. Dovesse capitare un qualsiasi tipo di inconveniente, io dovrò eventualmente rinegoziare, fare riferimento sempre alla mia banca o a quella di Treviso. Grazie. La natura della telefonata, sì. Perché io quando non ho trovato la lettera mi sono rivolto alla mia banca, io ho chiesto informazioni, dico senta, io ho smarrito la lettera, ma mi ricordo che praticamente voi avete cartolarizzato il mio mutuo. Sì, sì, no, sì. No, ma non si preoccupi, non è affatto vero, non è così, non è colà. Quindi dico, non c'è una trasparenza, non infatti, c'è un'informazione. Lo so Giuseppe, il tema della cartolarizzazione peraltro ha ostacolato anche, almeno in una prima fase, moltissimo tutte le rinegoziazioni, poi anche tutti questi nodi si sono sciolti nel frattempo. Mi faccio aiutare per tranquillizzarla, Maximilian Cellino, perché qualunque problema dovesse accadere, lui comunque si deve rivolgere alla banca con la quale ha sottoscritto il mutuo. Sì, intanto è già importante che abbia avuto una lettera, perché molti non l'hanno mai avuta, mm-hmm. la lettera della cartolarizzazione, peraltro la banca non era tenuta a inviare questa lettera, e se ne sono accorti poi nel momento in cui sono andati a cercare di effettuare alcune operazioni. Beh, però è strano che non abbia l'obbligo di comunicarlo, poi però ti mettono questa scusa della cartolarizzazione quando tu devi rinegoziare o hai bisogno di variare le condizioni del mutuo, quindi quantomeno. Beh, a lungo ne abbiamo parlato, esatto. È un problema che molte banche hanno posto, mentre invece la cartolarizzazione non può essere posta come problema nel caso uno voglia cambiare un mutuo, la cosiddetta portabilità. E poi tranquillizziamo, e anche con il dottor Messina lo potrà confermare, infatti. Il piano famiglie è esteso anche a tutti i mutui cartolarizzati. Adesso glielo faccio dire, però abbiamo recuperato anche il nostro ascoltatore di Venezia, Filippo. Sì, buongiorno. Senti, la sento un po' meglio, ma mica tanto meglio. Comunque, proviamo. Allora, adesso come mi sente? A scatti, Filippo, a scatti. Provi. Senta, allora, niente, io ho usufruito della moratoria del mutuo nell'anno 2009 fino a settembre del 2015, perché ho cercato di tamponare una situazione, diciamo, di mancanza di liquidità. Adesso la moratoria è terminata e quindi sono tornato nel pieno della rata. E ho chiesto praticamente alla mia banca se potevo rinegoziare il mutuo, diciamo, per il capitale residuo. Sì. Allora la mia domanda è questa: siccome ho notato da parte del mio istituto di credito una certa rigidità nel concedermi questo, e mi dicono che non è fattibile perché hanno fatto dei calcoli e non è per loro conveniente, a meno che io non pago un importo molto elevato di circa 160. Filippo, guardi, la lascio, abbiamo capito il succo della sua considerazione, vado subito ad Alessandro Messina. Beh, io direi che per nessuna banca è conveniente rinegoziare il mutuo, ci mancherebbe, è chiaro che è un impegno finanziario, un onere anche per il sistema bancario. Qua si tratta di stare ad ascoltare un po' le esigenze invece delle famiglie, perché la banca non ha neanche nessun interesse a che la famiglia non paghi più il debito residuo. Detto questo, per Filippo, moratoria chiusa, anche se non ho capito bene se lui avesse aderito al piano famiglie, forse era l'avviso comune del sistema delle piccole e medie imprese. Detto questo, la banca tutto potrebbe fare con un po' di buona volontà. Sì, poi devo dire che la rinegoziazione in un certo senso strettamente finanziario non è conveniente, ma in un'ottica di gestione prudenziale del rischio di credito, che è anche una delle prospettive con la quale noi abbiamo costruito avviso comune e piano famiglie, è un'operazione, come dire, di sana e prudente gestione, che va incontro a interessi convergenti che sono quello della banca e del debitore. Ora, la rinegoziazione non può mai essere imposta, perché in quanto tale per definizione si fa in due. Quello che forse si può valutare è se magari sfruttare il più possibile le leve del mercato, quindi andare in giro a parlare anche con altre banche, può in qualche modo creare degli incentivi anche con la propria o trovare soluzioni migliori altrove. Filippo, ci scriva e magari pungoliamo un po' il suo istituto di credito. Posso dire due cose? Sì, sul cartolarizzato eravamo anche rimasti in sospeso con lei. Sono più del 30% dei mutui sospesi sono cartolarizzati, sì. Quindi diciamo c'è una ampia operatività su questo. Però ancora ci si continua a stupire quando arrivano queste lettere. Ma guardi, a volte può capitare che la procedura non sia esattamente fluida, perché comunque c'è di mezzo un altro soggetto, che è un terzo, che spesso non è residente nel nostro Stato, e quindi, però voglio dire, tutte le banche ormai hanno gestito abbastanza bene tutta questa operazione. Io vorrei ricordare in generale, sui cartolarizzati come su altre questioni, che questo piano famiglie nasce da un accordo tra ABI e 13 associazioni dei consumatori, che dal primo giorno hanno lavorato insieme risolvendo anche casi singoli. Sì. Quindi non dico all'ABI, ma anche all'associazione dei consumatori, fate le segnalazioni. E le segnalazioni serviranno poi a capire se ci sono interventi, come di carattere generale o particolare, che possono essere fatti. Tanto c'è un'associazione dei consumatori in tutti i paesi, in tutte le città, per cui sicuramente se non è una è un'altra, sono 13 le firmatarie del piano famiglie, per cui magari cercate anche così con un po' di buona volontà di individuare sul territorio il referente per un'associazione dei consumatori, sicuramente riuscirete a trovarle. Noi non abbiamo più tanto tempo, c'è Leonardo da Milano che voleva chiedere in che anno si deve aver perso il lavoro per poter beneficiare della sospensione, lo ricordiamo ancora Maximilian. Allora, il piano famiglie, gli anni contemplati sono 2009-2010, per il fondo di solidarietà invece non ci sono in teoria limiti, poi vedremo se però le istruzioni diranno qualcosa di diverso. Preciso. Non ci sono limiti temporali. Noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi, torneremo sicuramente su questi argomenti, magari proprio quando sarà pronto il fondo Gasparrini, e inviteremo la diretta protagonista appunto di questo meccanismo che si sta architettando proprio in queste settimane. Grazie a Maximilian Cellino, ad Alessandro Messina, responsabile settore crediti dell'ABI, Gaia Romani per la collaborazione in redazione insieme a Marco Lombardo, Filippo Aureggi stamattina in assistenza tecnica, e come un miracolo stamattina chiude addirittura con 10 secondi di anticipo. Salvadanaio torna domani con l'RC Auto. Attenti, buona giornata.